Ah, indegna figlia, forse serbata fosti in vita per dare all'onor mio morte si turpe. Dalle fauci del mostro o dalla mano rea del rapitore, da sorte amica il destinato io sono, di tua figlia o signor a parte d'oro. Come? Tu forse o no mio la figlia? Sì, nella velota foga l'un e l'altro sorpresi. E dove sono? Si scortina ad un tratto tutto a veder l'onor dell'or delitto e a sentir il terror dell'or castigo. Nonno, rapita forza nulla deve disdegno contro Dorello avrar, e questo premio al nuovo vertio chiedo. Tutto il furor dell'ira tua si sfoghi solo il mero apporir. E impune dunque andrà la rea dell'onor mio si offeso. Offeso tu non sei, si violata l'onestà non è ancor. Vedi, ella viene. E t'audace sull'orme del tuo misfatto enorme, qui al torre punitor tratto pur sei. Signor, ciò che nel miro china mi colpa è già colpa di chi serve quale giudice le rettali son l'opre, qual suoli incerti colori di oggetti che posti in vario lume prendo in vario color all'occhi stesso. Io già pronto rinunzio alla mia sorte, piego il collo infelice. Avrai la morte. Ma più giusta sentenza io t'offello, o signor, dalle mie fiamme illumina quell'amore. Io l'animo e all'orgoglio, vinna le fare alle mie amore, gli affetti suoi. Giusto sei, condannato di quel debile la cagione che ne indusse, e non effetto. Generosa Dorilla, grande ma sfortunata è l'arte del tuo amor, ad usurparmi una morte che è mia, e non la gloria di versar per tuo amor questo mio sangue. Ma senti, oh no mio senti, quai care ingiuriose abbia accender lo sdegno. In oltraggio all'amore e ingiuria al merito soffermai più non posso, vilipeso così sugli occhi miei. Crudel Dorilla, in braccio della tua ingratitudine ti lascio, e tu intrepido amante va e fa pompa col sangue quanto a me sei rivale e a lei costante.